Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Crollo del cavacavia sulla 14, è stata riaperta l'autostrada, partono le indagini, si ipotizza un errore umano. L'assalto nella notte ad un ristorante, il padrone del locale imbraccia il fucile e spara, morto uno dei ladri nel Lodigiano. Salvini a Napoli, occupata la sala dove parlerà domani il leader leghista De Magistris, faccia il sindaco e non il capo ultra. Scandalo per corruzione, l'alta corte destituisce la presidente sudcoreana, scontri di piazza, ci sono state due vittime. Il calcio, questa sera Juventus-Milan, mentre la crisi della Roma è conclamata, ieri a Lione la caduta per 4-2. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it invece se ci volete scrivere, e poi a partire dalle 13.15 la nostra diretta anche sulla pagina Facebook, oltre che qua su Radio 24, www.facebook.com/effettogiorno. In apertura andiamo dunque alle indagini sul crollo del cavalcavia avvenuto ieri. È stato demolito e rimosso nella notte. Il troncone del cavalcavia ha crollato ieri mattina sull'autostrada A14 a Camerano, in provincia di Ancona. L'autostrada è stata riaperta in entrambe le carreggiate e l'area resta sottoposta a sequestro. Le vittime sono Emidio Diomede, 60 anni, e la moglie Antonella Viviane, 54. Erano sposati da 36 anni, vivevano a Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno. La loro auto è rimasta schiacciata nel cedimento del cavalcavia, in seguito al quale sono rimasti feriti tre operai romeni della Delabec, che eseguiva i lavori. Nessuno, per fortuna, è in gravi condizioni. La società Autostrade ha fatto sapere di aver chiesto con estrema urgenza alle aziende che hanno seguito i lavori sul cavalcavia una relazione dettagliata su quanto accaduto per accertare eventuali errori umani e valutare possibili azioni a tutela. Il cantiere, spiega la società, era stato avviato il 7 febbraio e si sarebbe dovuto concludere il 31 marzo. La procura di Ancona ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è per il momento di omicidio colposo plurimo. Mi riservo di valutare se esistano i presupposti per ipotizzare il reato di disastro colposo, ha detto il PM Irene Bilotta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta predisponendo l'istituzione di una commissione ispettiva di esperti per valutare quanto accaduto. Sembra che la corruzione non c'entri nulla da quello che emerge nelle prime letture, ma sia proprio un problema tecnico all'interno dei lavori, le parole del presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo torneremo più avanti nel corso della trasmissione nel nostro giro per l'Italia. Intanto con la cronaca, proseguiamo con la cronaca e ci spostiamo nel Lodigiano per una rapina finita con la morte del ladro. È un ladro non ancora identificato, l'uomo ucciso la notte scorsa mentre cercava di introdursi con tre complici in un ristorante di Casaletto Lodigiano in provincia di Lodi. A sparare il proprietario, che è rimasto a sua volta lievemente ferito. Da una prima ricostruzione, il ladro con i tre complici avrebbe cercato di entrare per rubare nel ristorante, che è anche bar e tabaccheria, verso le 3:30 della notte scorsa. Il titolare, Mario Cattaneo, di 67 anni, che vive sopra il locale, dopo aver sentito aprire violentemente la saracinesca, si è alzato dal letto e sceso nel locale e ha scoperto i ladri. Dopo una violenta colluttazione, l'esercente ha sparato con un fucile da caccia che deteneva regolarmente e uno dei malviventi è stato poi ritrovato senza vita, seminudo e senza documenti, poco lontano dal ristorante. Non è escluso che i complici nella fuga abbiano trascinato via il compagno con loro, abbandonandolo e spogliandolo di tutto per non renderlo riconoscibile. Anche il ristoratore Mario Cattaneo è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale maggiore di Lodi per lesioni ad un braccio e ad una gamba. Verrà sentito nelle prossime ore dagli inquirenti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A Napoli proseguono le tensioni in vista dell'arrivo di Matteo Salvini e dell'appuntamento da lui organizzato. È stata occupata la sala dove domani ci sarà l'incontro. Laura Viggiano in diretta da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Escalation di proteste 2 giorni fa, proteste spunte, ieri 2 striscioni con su scritto città desalvinizzata con palazzi sui palazzi che ospitano il Consiglio Comunale di Napoli e la terza municipalità, oggi l'occupazione della sala congressi della mostra Dolcemare, dove domani, come dicevi, il leader della Lega Matteo Salvini parteciperà alla manifestazione organizzata da alcune realtà politiche locali, secondo sulle informazioni fornite dalla Laura. Laura, ti interrompo un attimo perché la qualità dell'audio è veramente pessima e vediamo se siamo in grado di recuperarti più avanti per farti raccontare un po' che cosa sta succedendo in città in queste ore. Intanto ci spostiamo a parlare del dibattito sui voucher e sul lavoro, il punto di oggi con Vincenzo Miglietta. Eccoci Vincenzo. Sì, buongiorno. Partiamo, Simone, dai dati sul mondo del lavoro con un bilancio di fatto dell'Istat sul 2016, anno che ha visto l'occupazione aumentare di 293.000 unità sul 2015, più 1,3%, disoccupati in calo di 21.000 unità con il relativo tasso che passa dall'11,9% all'11,7%. I posti di lavoro in più coinvolgono oltre agli over 50 anche i giovani tra i 15 e i 34 anni. Il 2016 si chiude con un piccolo record, ovvero la media più alta degli occupati dall'inizio della crisi, caso a parte il quarto trimestre che mostra sia l'aumento degli occupati che dei disoccupati a causa del calo degli inattivi. Tema strettamente legato al mondo del lavoro intanto è quello dei voucher, è intesa in commissione lavoro della Camera su alcune modifiche all'attuale normativa. Viene introdotto il limite annuo di 3.000 euro per famiglie ed imprese, queste ultime senza dipendenti potranno usare i buoni, li pagheranno però più delle famiglie, potranno utilizzarli solo per determinate categorie di lavoratori e se non si atterranno a queste condizioni saranno costrette ad assumere a tempo indeterminato. Modifiche queste che non soddisfano al momento la CGIL e sembra anche la Corte Costituzionale che al momento non le riterrebbe sufficienti per far venir meno il referendum. È tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento ed è piuttosto probabile che ci saranno anche questi temi all'interno del dibattito che si svolgerà in questi giorni a Lingotto, dove Matteo Renzi lancia la sua corsa per la segreteria del Partito Democratico, mentre le tensioni all'interno del partito permangono. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, un appuntamento è uno dei luoghi simboli dell'Italia. Matteo Renzi apre a Lingotto di Torino la sua campagna congressuale, un cantiere, dice, programmatico per ripartire insieme. Il segretario dimissionario del PD spinge per il maggioritario di stampo veltroniano e propone un programma di ampio respiro dalle tasse all'Europa. Il ticket è con il ministro Maurizio Martina, che spiega sarà un progetto collettivo dal basso, l'alternativa ai populisti, 3.000 persone, 3 giorni di lavoro. Anche Matteo Orfini, reggente PD nella fase del congresso, sostiene Renzi, il paese è bloccato da 1.000 grandi rendite di posizioni che producono ingiustizie, scrive su Twitter. Renzi ha tentato di sciogliere questi nodi e oggi si ritrova l'establishment contro in una campagna violentissima. Presente anche il governatore della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che però avverte la vocazione maggioritaria non sia vocazione alla solitudine, ma a creare consensi e connessioni nella società. Gli sfidanti, lo ricordiamo, sono Michele Emiliano e Andrea Orlando. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito e forse siamo in grado di tornare a collegarci con Napoli e con Laura Viggiano per le proteste che sono in corso per l'arrivo di Matteo Salvini. Allora Laura, vai, vediamo se l'audio adesso va, se funziona il cellulare e sì, via dicendo. Vai. Sì, 2 giorni fa proteste sponte, ieri 2 striscioni con su scritto città desalvinizzata, comparsi sui palazzi che ospitano il Consiglio Comunale di Napoli e la terza municipalità. Oggi l'occupazione della sala congressi della Mostra d'Oltremare, dove domani il leader della Lega Matteo Salvini parteciperà alla manifestazione organizzata da diverse realtà politiche locali. Secondo le informazioni fornite dalla questura, un certo gruppo di giovani dei centri sociali e dei comitati dell'area Flegrea è entrato nel complesso fieristico che si trova fuori lotta, che ospita al momento il Nautic Sud. Si è introdotto dell'edificio in cui era in corso l'allestimento dell'impianto audio ed ha occupato il salone. Sono in corso trattative con la polizia per giungere ad un accordo e liberare la sala per far proseguire i lavori, ma se non dovesse essere trovato un accordo è prevedibile anche lo sgombero. Tutto questo mentre si prepara intanto anche un'altra manifestazione, quella di domani, denominata Mai con Salvini, e che dovrebbe prevedere un corteo da Piazza San Lazzaro. E grazie dunque a Laura Viggiano per questo aggiornamento. Vi terremo aggiornati anche su quello che succederà nelle prossime ore proprio per questo appuntamento di Matteo Salvini a Napoli. Ci spostiamo da Napoli a Roma, dove c'è stato un altro autobus dell'ATAC che è andato in fiamme. Si tratta del 16° negli ultimi 12 mesi, un discreto numero, tanto che la Procura ha deciso di aprire un'inchiesta. Linda Meleo, che è l'assessore alla città in movimento di Roma. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma che succede? Cos'è questa roba che gli autobus dell'ATAC bruciano? Allora, sicuramente quando all'ennesimo episodio di quest'anno abbiamo chiesto subito spiegazioni immediate all'azienda su quello che sta accadendo. E l'azienda ha aperto una commissione d'inchiesta e i risultati ci saranno poi presentati di qui a breve. Chiaro che ATAC abbia un pacco... Breve, mi scusi Mileo, breve sì. Vuol dire in che tempi? Appena avranno finito tutte le indagini, ecco, questo poi dipenderà... Non è in grado di darci una data, diciamo. No, una data adesso non può darvelo, poi vedo che è successo ieri, per cui aspetto anche altre informazioni tecniche, però sicuramente a brevissimo, perché questo è un fenomeno che deve essere tenuto sotto controllo. Vi dico, il parco medio, l'età del parco medio, scusate, è un'età abbastanza alta, considerate che siamo sopra i 10 anni, questo autobus che è andato in fiamme ha un'età di 15 anni, quindi capirete che qui c'è un'urgenza importante di rinnovare il parco vetture. In questo senso, quello che posso dirvi, come amministrazione stiamo facendo dei passi avanti importanti, ricordo i 150 bus che sono arrivati dopo aver sbloccato le procedure che erano ferme da tempo, ricordo i 15 bus che arriveranno di qui a 2 mesi, presi con i fondi del Giubileo, altri 65 bus che arriveranno entro fine anno con i fondi europei, e poi anche il recupero di alcune vetture importanti come i famosi 14 e 45 filobus che abbiamo permesso a Pagnotta. Mi scusi, ma su questo stiamo cercando di intervenire in maniera... State cercando di intervenire e questo lo capisco. È vero che c'è un problema di anzianità dei mezzi dell'ATAC e questo lo abbiamo raccontato spesso. Sì, dall'altra parte però, insomma, non è che tutti i mezzi vecchi più di una certa età prendono fuoco. Sospettate magari una qualche forma di sabotaggio? Guardate, in genere questi bus che vanno a fuoco sono sempre di una certa linea di produzione, quindi è evidente che con l'usura quel più stesso modello abbia insomma, fatto emergere chiamiamoli dei difetti molto gravi, evidentemente, su cui l'azienda comunque deve dare una risposta e sta sicuramente agendo in questo senso. Quindi stessa diciamo linea di produzione, quindi c'è un problema proprio del prodotto, per così dire. Esatto, che evidentemente nel lungo andare ha manifestato questa criticità. Più rispetto ad altri modelli. E in più c'è un tema di manutenzione, perché ci sembra di capire che la magistratura stia indagando anche su questo, sui livelli di manutenzione, su come vengono fatti anche da aziende esterne, no? Allora, il livello di manutenzione è un problema importante dell'azienda, perché io ho sempre detto il debito manutentivo di ATAC che è molto molto importante, non per questo come Roma Capitale abbiamo riconosciuto quei debiti fuori di pagamento, di quei debiti fuori bilancio ad ATAC, proprio per dare respiro, per riempire i magazzini di nuovo e quindi per far sì che anche la manutenzione sia migliore in termini di programmazione, perché poi è questo quello che è mancato all'azienda negli ultimi anni, una programmazione seria di tutte le attività di manutenzione. È chiaro, quindi è un problema che anche in questo senso stiamo cercando di risolvere, abbiamo messo a disposizione queste risorse, quindi insomma l'auspicio è che questi episodi vadano a ridursi a zero. Lo speriamo davvero. Grazie a Linda Meleo, assessore, lo ripeto, alla Città in Movimento di Roma, sarebbe in sostanza l'assessore ai trasporti, per essere stata con noi, quale battute si sprecano anche via WhatsApp ed SMS. Autobus combustione, ci dice qualcun altro ha scritto Flambus ATAC, specialità tipica romana. Anche questo non è male. Parliamo di cose al di là delle battute, parliamo di quello che sta succedendo in Corea del Sud, perché importante un po' per tutta l'area. Sentiamo. La Corea del Sud avrà un nuovo presidente entro il 9 maggio prossimo, con elezioni anticipate. La presidente Park Geun-hye, primo capo di Stato donna del paese, è stata oggi destituita dalla Corte Costituzionale, che ha confermato l'impeachment votato dall'Assemblea Nazionale a dicembre. Park è accusata di collusione nelle mene affaristiche e nelle interferenze nell'azione di governo di una sua amica di lunga data, Choi Soon-sil, considerata una specie di Rasputin venata di sciamanismo, che utilizzava l'amicizia per estorcere denaro a grandi aziende come Samsung. L'attuale presidente facente funzioni, primo ministro Wang Kyo-han, ha fatto un appello all'unità nazionale e alla calma, dopo che si sono oggi verificati vari scontri a Seul tra dimostranti e polizia, con più di un morto tra i sostenitori della Park, forse anche per suicidio. La borsa coreana ha terminato in leggero rialzo. Molto meglio che si vada a elezioni subito e che una nuova amministrazione si insedi. E per la PAC ora il rischio è quello di essere incriminata per corruzione e abuso di potere. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. Notizie che ci riguardano, che riguardano il gruppo 24 ore, il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza sta eseguendo 4 decreti di perquisizione nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sui conti del nostro gruppo editoriale, inchiesta che al momento vede 10 persone indagate per false comunicazioni sociali e appropriazione indebita da circa 3 milioni di euro. Al centro di tutto una presunta fittizia sottoscrizione di decine di migliaia di abbonamenti digitali. Tra gli indagati per false comunicazioni sociali, l'ex presidente del gruppo Benito Benedini, l'ex amministratore delegato Donatella Treu e il direttore del quotidiano Roberto Napoletano. È arrivata anche una nota di Confindustria, che è l'azionista in maggioranza, come sapete, del Sole 24 Ore. In riferimento alle comunicazioni della Procura di Milano, Confindustria conferma piena fiducia alla magistratura nella sua azione e ribadisce la necessità che venga fatta la più ampia chiarezza sui fatti passati relativi al Sole 24 Ore. Il CDA del gruppo editoriale valuterà nella sua autonomia le azioni da prendere, prosegue il comunicato di Confindustria. Confindustria, nella sua qualità di azionista di maggioranza del gruppo, valuterà tutte le azioni necessarie a tutela propria e degli altri azionisti. Prima di andare al traffico e poi iniziare il nostro giro per l'Italia, che vi ricordo sarà anche in diretta sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, un punto calcistico che tiene conto naturalmente di Juventus Milan e anche della crisi nera della Roma. Carlo Genta, ciao. Sì, ciao Simone. I nervi, sì. Guarda, non mi dire niente. Definita nera, io la definirei grigio scuro, insomma. Chiaro che la Roma è la terza sconfitta consecutiva tra Coppa Italia col Napoli campionato, Coppa Italia con la Lazio campionato con il Napoli, e ieri sera a Lione, tra l'altro in una gara strana in cui era andata sotto, poi è riuscita a ribaltare il risultato portandosi sul 2-1 e alla fine ha dimostrato quello che è un filo costante in queste ultime partite, cioè una certa fragilità difensiva. Alla fine un 4-2 che richiede una gara difficile ma non impossibile, diciamo, all'Olimpico al ritorno. Stasera c'è uno dei grandi classici del calcio italiano, e cioè Juventus-Milan allo Stadium, lo Stadium che miete vittime sportive ormai da 30 partite consecutive. Da 30 partite consecutive nessuno esce con nemmeno un punto dalla casa della Juventus. D'altra parte il Milan, la Juventus quest'anno l'ha battuta due volte in campionato, poi nella Supercoppa europea, ha perso ovviamente allo Stadium in Coppa Italia. In altri tempi sarebbe stata la partita scudetto, ne avremmo parlato per decine di giorni, oggi semplicemente a partita di un campionato che la Juventus ha già in tasca. Allora, grazie Carlo, ti ritroviamo dopo. Alle 14 in tutti i convocati. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Torneremo a parlare del crollo del cavalcavia sulla A14, ma andremo anche a Firenze, dove ci sono un paio di proposte interessanti e che ci hanno colpito, e sono arrivate tutte e due dal sindaco Nardella. La prima proposta riguarda la prostituzione in un'area a forte prostituzione: mettere delle telecamere e delle foto, multare e mandare le multe a casa per far capire dove ci si trovava in quel momento, magari appunto con tanto di foto. E dall'altra parte la proposta, che è interessante e curiosa perché arriva da un sindaco del Partito Democratico, di imporre 10 anni di residenza prima di entrare in classifica per una casa popolare. Traffico a tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'assalto nella notte ad un ristorante. Il padrone del locale che ha imbracciato il fucile e ha sparato è morto uno dei ladri, e siamo nell'Lodigiano. Tra l'altro, le notizie di pochi istanti fa che il comune ha detto, l'amministrazione comunale di Casaletto Lodigiano sarà al fianco di Mario e Luca e delle loro famiglie. Il crollo del cavalcavia sulla 14, ci torniamo tra un attimo, è stata riaperta l'autostrada, sono partite le indagini, si ipotizza un errore umano. Le proteste per Salvini al Napoli, è stata occupata la sala dove parlerà domani. Il leader leghista si rivolge a De Magistris e gli dice: faccia il sindaco e non il capo ultra. E poi ci siamo occupati anche della Corea del Sud e di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo da Firenze. Con noi Federico Gianassi, che è assessore alla legalità del comune. Gianassi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, il primo punto è questo, cioè questa intervista lunga del suo sindaco, di Dario Nardella, al Corriere della Sera, oggi, nel quale parla di prostituzione e si sta ipotizzando, tra l'altro, un meccanismo nel momento nel quale verrà varato questo decreto sulla sicurezza, ampiamente annunciato dal governo e dal ministro Minniti, un decreto che sospettiamo che, dato che darà più ampio potere ai sindaci, darà ampio modo a questa trasmissione di tornare spesso sulla cronaca locale, perché ci aspettiamo ordinanze piuttosto fantasiose, e nella fattispecie voi state immaginando di fotografare i clienti delle prostitute o sostanzialmente le loro macchine e di mandargli le foto a casa, ho capito bene? Beh, non precisamente così. In realtà partiamo da un aspetto: che il decreto annunciato dal Ministro è in vigore, perché è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, è un decreto legge. Attualmente pende alle Camere per la conversione nei 60 giorni e la discussione quindi adesso è in Parlamento. Quel decreto prevede alcuni strumenti. Uno di questi è maggiore potere di ordinanza in capo ai sindaci, non tanto per contrastare la prostituzione, ma per contrastare e prevenire comportamenti scorretti. Tra questi comportamenti scorretti, ovviamente, la norma si riferisce anche allo sfruttamento della prostituzione, che è un reato gravissimo. Sostanzialmente questo decreto quindi dice quello che fino ad oggi non era stato detto, cioè che ordinanze del sindaco che cercano di prevenire contesti nei quali si applica la prostituzione potrebbero adesso essere approvate. Ovviamente sì, si tratta di vedere anche l'attività di conversione del Parlamento. Va bene, ma la sostanza è che cosa state immaginando in sostanza? Sistema di telecamere? Abbiamo, come immagino succede anche in altre città, alcune zone un po' critiche da quel punto di vista, perché si creano fenomeni di grado, di difficoltà di relazione soprattutto con le comunità che vivono negli ambienti nei quali poi sulla strada viene svolta la prostituzione. Quindi il sindaco ha detto, tra le varie misure che noi utilizzeremo attraverso il nuovo decreto, pensiamo di utilizzare anche un intervento attraverso le ordinanze per contrastare il fenomeno della prostituzione, soprattutto individuando le aree, ne ha citate un paio il sindaco, nelle quali da più tempo si verificano questi fenomeni. In particolare una delle due aree, un parco storico e meraviglioso della città, il Parco delle Cascine, ha annunciato che oltretutto verranno sistemate anche delle telecamere di videosorveglianza, che però in realtà hanno la funzione ovviamente di prevenire l'accesso abusivo, quello veicolare, perché è un parco pedonale meraviglioso, e quindi sostanzialmente le due cose sicuramente sfavoriranno i comportamenti scorretti, compreso quello della prostituzione, in particolare da chi passa con l'autoveicolo non potendoci più passare. Quindi diciamo così, è un po' un trucchetto, però poi alla fine in sostanza succede che a casa ti arriva la multa con la foto. Beh, la multa arriva perché la macchina è passata in una zona pedonale e quindi viene fotografata e va a casa. Certo. Il sindaco ha detto, ritengo che certamente possa anche prevenire comportamenti tipo quelli di coloro che vanno poi con le prostitute. Perché poi ti ritrovi la multa a casa, la moglie dice, ma com'è che eri con la macchina nell'area pedonale? Come mai hai violato un'area pedonale della città, magari alle 3 di notte? Però la telecamera vale ovviamente per la tutela delle aree pedonali. L'ordinanza invece il sindaco ha annunciato è un'ordinanza che faremo sul tema specifico, insieme ad altre misure che pensiamo di adottare a seguito dell'adozione di questo decreto. Introduce ad esempio il DASPO, l'obbligo di allontanamento di persone che hanno comportamenti scorretti nei centri urbani. Quindi insomma noi siamo motivati, Giannassi, pensiamo sia un tema importante. Giannassi, fanno notare molti ascoltatori che sono esperti non di prostituzione ma di meccanismi di mercato, che le prostitute si sposteranno da un'altra parte, molto banalmente. Beh, è possibile, però non è, come dire, una buona argomentazione, perché un sindaco o un'amministrazione non si preoccupano di risolvere i problemi che affrontano nel territorio. Ci scrive un altro, pensa se un poverino sbaglia strada. Una cosa pericolosa, distruggi una famiglia per un errore. Può darsi che molti utilizzeranno questa scusa, non c'è dubbio, di aver sbagliato, strada. Vedi. Ora, devo dire, il Parco delle Cascine ci si va se ci si vuole andare, infatti molti ci vanno perché è un parco bellissimo e ci sono mille attività, difficile perdersi in quella zona, quindi non lo so. Però io più che della telecamera mi preoccuperei dell'ordinanza, semmai perché è gestionato, perché quella noi intendiamo farla. Giannassi, un'altra domanda invece su un'altra ipotesi che è circolata nelle scorse ore, cioè di allungare i tempi necessari di residenza, diciamo così, sul territorio italiano per entrare in classifica per le case, in graduatoria per le case popolari. Mi sembra che abbiate parlato della possibilità di estendere a una decina d'anni questo tempo, cioè devi vivere in Italia 10 anni per poter entrare in graduatoria? Beh sì, il nostro sindaco ha posto questo tema una decina di giorni fa, c'è stato poi un ampio dibattito su questo. Abbiamo denunciato una situazione di difficoltà, è un problema che esiste e che va affrontato. Il tema è che se noi vediamo i grandi assemblamenti delle case popolari, vediamo che soprattutto le nuove assegnazioni hanno un numero di assegnazioni di stranieri piuttosto elevato. È difficile, volendo dare, noi siamo un'amministrazione di centro-sinistra, quindi non abbiamo, sì, come dire, retaggi culturali per cui lo straniero non vada bene, non c'è assolutamente questo, però vogliamo gestire i fenomeni che si verificano nella nostra società e nella nostra comunità, e si può fare integrazione se i numeri consentono di fare integrazione. Se c'è uno sbilanciamento forte è impossibile fare integrazione. Sì. Il sindaco di Firenze ha posto questo tema, l'ha posto la Regione Toscana, che è competente a legiferare in materia di case popolari, di assegnazione di case popolari, e ha posto il tema di allungare il criterio della residenza, quindi della permanenza nel territorio, sì, per poter entrare in graduatoria. Ci possono essere anche altri elementi, altre proposte. Quello che credo non si possa fare è far finta di non vedere che c'è una situazione difficile che poi i comuni si trovano ad affrontare. Allora grazie a Federico Gianassi per essere stato con noi, assessore alla legalità del comune di Firenze. Addirittura Felice D'Arieti ci scrive: basta coprire la targa o modificarla con il nastro isolante. Ma insomma, ormai siamo... vabbè, insomma, più che altro appunto quello che succederà è che si sposteranno le prostitute, come molti ci scrivono. Allora, la vicenda del cavalcavia crollato sulla 14. Abbiamo cercato oggi di fare un po' di chiarezza, al di là di quelli che possono essere i titoli un po' altisonanti, le dichiarazioni del sindaco che diceva che bisognava chiudere l'autostrada, tutti i ragionamenti sul paese che crolla. In realtà, a quanto pare, qua sembra che si sia trattato di un errore umano. Abbiamo cercato di fare chiarezza con un esperto. Pier Giorgio Malerba è docente di Bridge Theory, ossia di teoria dei ponti, al Politecnico di Milano, è un ingegnere strutturista, tra l'altro. Gli abbiamo fatto un po' di domande, sentiamo cosa ci ha detto. Trattandosi di una situazione così particolare, quindi cominciando dalla sicurezza degli operai in cima, ma poi sulla diciamo rilevanza del problema della sicurezza per la parte sottostante col transito autostradale, i sistemi di sicurezza è chiaro che devono essere ridondanti, nel senso che posso anche accettare che ci sia un inconveniente, una rottura locale, ma ci deve essere un altro meccanismo che la recupera e mi mantiene la stabilità complessiva del sistema. Quindi devo prevedere anche gli imprevisti, assicurando che comunque non accada nulla di effettivamente grave. Sì, per semplificare, ci vogliono più sistemi di sicurezza che intervengano, come dire, a scalare, no? Nel momento nel quale fallisse uno, ce ne deve essere un, esatto, altro che interviene. Esatto, si chiama robustezza di un sistema. Adesso nel dettaglio, ho visto alcune foto che parlavano di attrezzature provvisorie di cantiere, eccetera, ma non erano decifrabili, quindi bisognerebbe capire effettivamente quali erano i dispositivi adottati, la sequenza di manovra, i sistemi di ritegno e poi la sequenza di la catena di sicurezza progressiva nella forma che le ho detto, cioè che ci sia una certa ridondanza. Possiamo però escludere, almeno in linea di massima e finché non avremo dettagli ulteriori, un cedimento dovuto a materiali scadenti del ponte medesimo e del cavalcavia medesimo? Beh, allora, in assoluto no. Riferisco l'esperienza di altri casi che sono stati spiegati dopo indagini lunghissime, perché il motivo vero sfuggiva a tutti. Cioè, l'effetto era il crollo di una campata. Le cause sono state immaginate le più svariate, però nessuno chiudeva con una prova determinante. Ecco, in quel caso fu la rottura di uno spigolo della trave sulla quale, per un disassamento, era venuto improvvisamente a cadere tutto il peso della travata. Caduto lo spigolo, per una serie di situazioni sfortunate, è venuto giù tutto. Quindi come può essere che puntando su alcune parti, ha chiamato quelle parti, diciamo anche di calcestruzzo, a lavorare più di quello che erano in grado di portare. Come capiscono i nostri ascoltatori, anche da quello che ci dice lei, in realtà la questione è molto più complessa di quanto non può apparire. L'ultima cosa che le voglio chiedere, professore, è questa. Il sindaco del posto ha detto: l'autostrada in questo caso andava chiusa. quanto è frequente che in lavori di questo tipo che vengono compiuti sulle autostrade italiane vengano chiusi i tratti autostradali e quanto frequenti sono questi lavori? Perché se dovessimo chiudere l'autostrada ogni volta che c'è un lavoro di questo tipo e questi lavori fossero molto frequenti, beh, ci troveremmo probabilmente bloccati dappertutto. Ci può dare un'idea? Sulle prime risposte no, perché occorrerebbero delle statistiche precise e dipende anche dalle politiche dei vari enti gestori, quindi non sono assolutamente in grado di dare una risposta. Sulla seconda, cioè sulla frequenza di questi interventi sono molto frequenti, diciamo almeno per tre motivi. Uno, perché è in corso un adeguamento sismico di tutte le strutture più importanti. Il secondo, perché è in corso un adeguamento funzionale, tipo carreggiate leggere, carreggiate troppo strette, come poteva essere in questo caso. L'altro è per riparazione e sostituzione, per esempio, dei dispositivi d'appoggio che comportano effettivamente un sollevamento del ponte. Però, anziché citare la statistica che non ho, posso citare casi dove il sollevamento è stato fatto addirittura col traffico che transitava sopra. Avete capito dunque cosa ci dice il professor Malerba del Politecnico di Milano? Un'operazione di questo genere, operazioni di questo genere normalmente possono essere fatte anche con il traffico che va sopra il cavalcavia. Questo ci dimostra che evidentemente che è piuttosto probabile, poi vedremo quali saranno le evidenze della magistratura, che ci sia stato un errore umano ed evidentemente, insomma, non è strettamente necessario chiudere l'autostrada in questo caso. Comunque, questo è il punto. Arriverà l'inchiesta e chiarirà tutto, o almeno speriamo che lo faccia. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi ci ritroviamo. Il nostro giro per l'Italia riprende. Siamo sempre in diretta sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, e ci risentiamo tra un attimo. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: il crollo del cavalcavia sulla 14 è stata riaperta all'autostrada, notizia di pochi istanti fa. Nel cantiere del ponte lavoravano almeno due ditte, ma ce ne sono anche altre che stiamo cercando di individuare, dicono i magistrati. L'assalto nella notte ad un ristorante, il padrone del locale imbraccia il fucile, spara, è morto uno dei ladri nel Lodigiano. Salvini a Napoli, occupata la sala dove parlerà domani, il leader leghista si rivolge a De Magistris e dice: faccia il sindaco, non il capo ultra. Scandalo per corruzione, l'alta corte destituisce la presidente sudcoreana, scontri di piazza, ci sono state due vittime, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo e in chiusura di trasmissione proseguiamo il lavoro che stiamo facendo ormai da due settimane e che proseguiremo anche nelle prossime settimane. È un lavoro di attenzione e di riflettori puntati su un territorio molto vasto, colpito tanto dal terremoto quanto dall'ondata di maltempo che si è abbattuta su quelle zone e poi ancora sull'area un po' più vasta, quella che è stata colpita anche nel turismo e nelle sue attività economiche principali. Ci occupiamo dunque dei comuni colpiti dal terremoto e oggi andiamo nelle Marche, o meglio torniamo nelle Marche, perché in questa settimana ci siamo già stati con Sante Stangoni, che è il sindaco di Acquasanta Terme, provincia di Ascoli Piceno. Buongiorno Stangoni, benvenuto. Buongiorno a voi. Come vanno le cose? Le cose vanno molto a rilento, purtroppo abbiamo delle difficoltà perché ci siamo impegnati in questi mesi a realizzare una nuova scuola antisismica e quindi cercare di mantenere la popolazione. Personalmente mi sono impegnato a mantenere il centro storico aperto, cercando di mettere in sicurezza le attività commerciali, ma ahimè le attività commerciali non hanno più introiti, ma questi introiti non ce l'hanno perché non c'è la popolazione. Arquata, che cioè il territorio nostro è molto chiaro, noi confiniamo con Arquata che non ha nessun abitante, Accumuli che non ha nessun abitante, Amatrice che ormai non ha nessun abitante, la galleria per Norcia con Norcia avevamo degli scambi commerciali importanti, è chiusa dal 24 agosto, cioè dopo il problema del sisma. Di conseguenza Castelluccio pure è chiuso, l'indotto commerciale ed economico di Acquasanta erano proprio due, il turismo E il discorso poi dei paesi limitrofi. A questo punto noi ci troviamo che, pur cercando di mantenere la maggior parte della popolazione, risistemandola nelle varie case, negli alberghi, però ci troviamo che non abbiamo più una possibilità di sopravvivere, perché le attività commerciali non hanno la possibilità, ecco, di vendere, di avere introiti. Allora, questo è un problema, tra l'altro, Sindaco, che è molto importante e molto rilevante. Poi ci arriveremo anche nelle prossime settimane in quello che è un vero e proprio viaggio che stiamo facendo e che riguarda sicuramente voi, quelli che siete, no, al centro di tutto, quelli più colpiti dal sisma vero e proprio nelle strutture, ma riguarda, come si diceva, un'area molto più vasta. Molto più vasta. Perché la gente sente terremoto e quindi non vuole andare in quelle zone, anche se quelle zone sono distanti. No. Decine e decine di chilometri. Senta, Sindaco, vorrei capire da lei la popolazione com'è messa al momento, dove sono distribuiti. Allora, utilizzando l'immenso patrimonio immobiliare che avevamo, proprio perché noi viviamo e vivevamo soprattutto in passato di turismo, perché ci sono le terme poi importanti, con un livello, una temperatura di 36 gradi, quindi a livello curativo e nello stesso tempo anche medicale di un certo tipo. Il problema è che adesso, pur avendo ricomposto gran parte della popolazione, perché noi siamo una popolazione di 2.900 abitanti, con il sisma del 24 e quello del 30, oggi diciamo che comunque un 2.500-2.600 persone sono tornate sul territorio sfruttando questi immobili. Sì. Molti sono ancora nella costa e però hanno già iniziato i piccoli progettini per i famosi danni lievi, e quindi io conto di riportare gran parte della popolazione nel mio territorio. Ma adesso sopraggiunge l'altro problema, cioè sì, queste persone tornano, ma tutte le per nostre fare cosa, dice e lei, tutto il nostro indotto qui come si fa a mantenere? Se io ho dei commercianti che incassano 5 euro al giorno e devono pagare anche le tasse, possono reggersi solo esclusivamente con i 2.000 abitanti della mia realtà? La risposta è una risposta retorica, cioè una domanda retorica alla quale l'unica risposta possibile è evidentemente no. Noi non smetteremo, Sindaco, di chiamarvi, di chiamare voi sindaci, di sentire anche le realtà locali, dei commercianti, degli albergatori, per tenere i riflettori accesi su tutto questo, su un'area, lo ripetiamo, veramente vasta del nostro paese, che è il cuore del nostro paese e che in questo momento sta vivendo questa fase di forte difficoltà. Grazie a Sante Stangoni, Sindaco di Acquasanta Terme. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.